Casa circondariale, carcere, gattabuia, penitenziario, casa di detenzione, galera, gabbio, casa di pena, cella, gabbia, guardina, reclusorio, luogo di pena, riformatorio, carcere, terra desolata, buco nero, vulcano sotterraneo, isola. Separare, distanziare, allontanare, recludere, nascondere, riformare, rieducare, ristabilire, ordinare, rinascere, rimuovere, cancellare, illuminare, respirare, nutrire, maltrattare, istruire, raddrizzare, curare, prendersi cura, rispettare. Dignità. Identità, diritti del recluso, doveri, distinzioni, lavoro, capacità, diversità, disponibilità, desiderio, riabilitare, aiutare, insegnare, accompagnare, migliorare, stimolare, liberare, liberare, liberare. Il carcere produce libertà. Da ragazzina mi succedeva spesso di dover prendere la linea dell'autobus 905, quella che passa per il Lungotevere. Parte da San Pietro, poi Lungotevere Sanzio e giù fino a Piazza Trilussa. Poi a piedi percorrevo Via della Lungara fino a Via delle Mantellate, al numero 15, dove abitava la signora Ada Rossi, la madre di mia nonna, la mia bisnonna. Questo percorso lo facevo almeno 3 volte a settimana e ogni volta che facevo quella strada, prima dall'autobus, poi a piedi, non ho mai potuto fare a meno di osservare, a volte apertamente, altre volte quasi di nascosto, l'edificio al numero 29 di Via della Lungara. Regina Celi, il carcere romano, il carcere del centro. Non potevo fare a meno ogni volta di creare una sorta di relazione con quel posto, di integrarlo nei miei pensieri del momento, di tradurlo attraverso la mia immaginazione. Per esempio, io percorrevo spesso quella strada con le buste della spesa da portare a mia nonna, con il latte, le uova, il pane, il bagnoschiuma, e ogni volta che mi trovavo di fronte all'edificio mi domandavo: ma i detenuti la spesa la possono fare? Possono scegliere se comprarsi il latte o le uova? Possono scegliere quale tipo di bagnoschiuma usare? Io a mia nonna prendevo sempre quello che lascia la pelle morbida, vellutata. Se ne prendi uno scadente, poi la pelle è secca, dà fastidio. Il bagnoschiuma fa la differenza. Io arrivavo da mia nonna piena di queste domande, alle quali lei non rispondeva, mai. Però mi raccontava una storia, che quando lei aveva 14-15 anni, dall'alto, dal fontanone del Gianicolo verso il tramonto, partiva un coro di voci che attraversava tutta Trastevere, passando per Via delle Mantellate, Vicolo dei Riari, fino alle celle di Regina Celi. Anino! Come gli stai? Bene! Me manchi, Nino! Anche tu! Oh, Nino! Nino mio, te vengo a trovare! Te vengo a trovare presto! Te porto l'aranci tua! Chille che te piacciono tanto, l'aranci tua, Nino! Te amo, Nino! Anch'io te amo, t'aspetto! E io restavo ad ascoltarla a bocca aperta, incantata. E forse è da lì che è cominciata questa strana ossessione. Strana, sì. Per esempio, a me succede una cosa: quando prendo la metropolitana, la linea B, e leggo Rebibbia, ho sempre un breve ma intenso sussulto, come se quel nome, il vederlo scritto, il sentirlo pronunciare, aprisse il mio immaginario verso un luogo epico, una storia universale, arcaica, come se attorno a questi nomi respirasse un senso del tragico, inteso come tragedia greca, inevitabile, eterno, ripetuto. Non so se è mai successo anche a qualcuno di voi. È successo. Voglio dire, il sentire una curiosità, un fascino verso un luogo inaccessibile, intoccabile, diverso, dentro la città. È così, un'isola che vive ed esiste dentro la città. Un buco nero, forse. Mi viene in mente, in fisica, il termine buco nero. Con esso si definisce una regione di spazio dove la forza di gravità è così intensa che nulla, nemmeno la luce, può sfuggire da esso. Nulla può sfuggire da esso. Ecco, sì, un luogo, un centro concentrato, un concentrato di energia vulcanica, deviante, magmatica, che ha abbattuto i confini segnati, che è esplosa, implosa. Il buco nero nasce alla fine della vita di una stella, quando la stella non resiste più all'attrazione gravitazionale, alla fine della sua danza con la forza di gravità. Io ho da sempre, credo, avuto la curiosità di capire cosa succedeva lì dentro, chi e come abitava quelle mura, chi abitava quelle voragini isolate, dov'erano finite quelle stelle danzanti. E forse è da qui che ha avuto inizio tutto questo. Siamo in cinque, tra fratelli e sorelle. Io sono la più grande. Facevo la parrucchiera, ma i soldi non bastavano mai. Non bastavano per affitto, non bastavano per la retta della scuola, a volte non bastavano neanche per mangiare. Il sogno di quasi noi tutti, ragazzi e ragazze, era quello di andare in America o Europa e guadagnare un po' di soldi e aiutare la propria famiglia. Un giorno nel negozio in cui lavoravo è arrivata una signora e mi ha detto: «Sei giovane, cosa fai qui? Perché non vai in Italia? Ti aiuto io. Conosco un ristorante nel quale potresti andare a fare la cameriera. Ti anticipo i soldi per il biglietto aereo, poi tu me li restituisci con il primo stipendio». Ne ho parlato in casa ed è sembrato a tutti una cosa buona. Allora ho deciso e sono partita. Ho viaggiato 2 mesi con il fratello della signora. Prima in macchina, poi a piedi. Ho camminato tanto. Siamo arrivati a Torino, Italia. Mi hanno portato in un appartamento dove c'erano altre ragazze nigeriane, moldave, rumene. C'era un via vai in quell'appartamento. Ogni giorno 2 o 3 ragazze venivano portate via. Poi è arrivato il mio turno. Un giorno una signora poco più grande di me mi ha portato con lei. Mi aveva comprato, ma io ancora non lo sapevo. Poi è arrivato il giorno seguente e mi ha dato dei vestiti da indossare per il lavoro, un costume da bagno, una gonna corta e, visto che era freddo, un cappotto. Abbiamo preso l'automobile e mi ha portato sulla strada dicendomi: Ho pagato 100 milioni per farti venire fino a qui. Ora me li devi restituire tutti e in breve tempo. L'unico modo per fare tanti soldi in poco tempo è questo. Se provi a scappare o parlare con polizia, faccio uccidere tutti i tuoi fratelli. Di giorno dormivo facendo i turni con le altre ragazze per potermi coricare su un materasso steso per terra. Nell'appartamento della mamma eravamo 10. In una stanza 8 ragazze, nell'altra lei e il suo uomo. I soldi che guadagnavo dovevo consegnarli tutti, ma non tutti venivano conteggiati per estinguere debito. Una parte veniva presa per affitto appartamento, una parte per mangiare e per pagare posto su strada che mamma doveva a chi stava sopra di lei. In mezzo allo schifo, con la voglia di uccidere e di morire, ho lavorato su quella maledetta strada, con il freddo nelle ossa ed il terrore di chi incontravo. Ho preso botte e insulti. Insieme a me c'erano altre ragazze nigeriane, rumene, albanesi, moldave, maggiorenni e non, che come me erano venute in Italia perché sognavano di essere felici. Quando io esco di qui, io torno al mio paese. Non mi piace qui. La gente non è buona. Se sapevo com'era Italia, io non sarei mai venuta. Quando esco di qui, io torno al mio paese. Lori, Moldava, carcere di Milano Opera. Che cosa succede quando una detenuta, sia italiana o straniera, arriva in carcere? Immaginiamoci un treno. Nello scompartimento sono seduti 2 passeggeri. Sono diventati quasi intimi. Hanno sequestrato gli altri sedili, i tavolini, le reticelle dei bagagli, gli appendiabiti. La porta all'improvviso si apre ed entrano 2 nuovi viaggiatori. Il loro arrivo non viene molto apprezzato, al contrario si percepisce nell'aria un'avversione evidente all'idea di doversi stringere per liberare i posti occupati. Nel frattempo i viaggiatori che già stavano seduti all'interno si comportano tra di loro, anche se non si conoscono, con evidente solidarietà e sembrano un gruppo compatto di fronte alla gente che è appena arrivata. Loro si sentono autoctoni e hanno diritto a tutto il posto. I nuovi viaggiatori sono invece degli intrusi, appena tollerati. Sì, poi ci si abituerà anche a loro, ma resteranno sempre degli stranieri. Alla stazione successiva, la porta dello scompartimento viene aperta di nuovo da 2 nuovi viaggiatori. Da questo momento lo stato dei 2 entrati prima di loro cambia. Poco fa erano intrusi, estranei, adesso improvvisamente sono diventati autoctoni, appartengono al clan dell'ordine costituito, dello scompartimento. In carcere, il nuovo giunto arriva all'improvviso a occupare un posto in una cella per 6-8 persone, dove già 5-6 detenute si sono sistemate e hanno occupato tutto lo spazio. Tutte si domandano: come sarà questa nuova giunta? Si adatterà a noi o porterà ancora più problemi? La mia prima esperienza con il carcere ha avuto inizio con il mio ingresso nella casa circondariale di Padova nel 2001. Non ero mai stata in carcere prima di allora e mai avrei pensato di entrarvi. Vista la mia totale estraneità a qualsiasi forma di delinquenza, mi ricordo il mio ingresso all'istituto come l'ingresso in un mondo parallelo, fatto di blindi e chiavistelli al posto di porte e di sbarre al posto di persiane. Mi ritrovai in una cella di isolamento dove fui segregata per qualche tempo per ordine del giudice delle indagini preliminari. Dopo alcuni giorni iniziai ad andare all'aria, un corridoio di 2 metri e mezzo lungo una ventina, con le mura di cemento e filo spinato e in alto, all'altezza di 20 metri, una sbarra di metallo per evitare qualsiasi possibilità di evasione. Il regime di alta sorveglianza cessò nel giro di meno di una settimana e venni declassata a detenuto comune. Purtroppo, però, a causa del sovraffollamento, rimasi in reparto. Il reparto cominciò a riempirsi di persone, tant'è che ci trovammo a dividere una cella di isolamento in 3 detenute, il che mi sembra entri apertamente in conflitto con il significato della parola stessa, isolamento. Ma ben presto capii che nel luogo in cui era entrata, di logica ve ne fosse ben poca. L'acqua che fuoriusciva dai rubinetti era limacciosa, i sanitari fatiscenti. Non ci veniva dato in dotazione neanche un detergente. E potevamo farci la doccia una volta a settimana, poiché una sola doccia serviva l'intero braccio. Dopo qualche tempo mi ritrovai nella cella numero 25 del secondo braccio della casa circondariale e all'inizio fui presa d'angoscia. Mi ritrovai a dividere la cella con altre 8 detenute in uno spazio programmato per contenerne 4. La convivenza in una stanza così piccola, in 9 persone sconosciute, spesso soggette a problemi di tossicodipendenza o psichiatrici, può essere molto difficile. E le nostre discussioni finivano spesso in modo animato e violento. Anche le condizioni igieniche all'interno dell'istituto non erano delle migliori. Aree come la biblioteca erano pressoché inagibili. C'erano nidi di uccelli, per non parlare dei cumuli di polvere che sovrastavano i libri. Tale area era chiusa perché il tragitto che portava dalla rotonda alla biblioteca era pericolante. C'erano pezzi di soffitto sul pavimento e le transenne piazzate per i lavori di ristrutturazione rimasero lì per tutto il periodo trascorso da me in quell'istituto. Anche i farmaci erano un problema. A causa del sovraffollamento non c'erano abbastanza medicinali e persino le aspirine erano un lusso. E un semplice mal di testa poteva essere un problema molto serio da risolvere. La mia cella, io la chiamo suite. Carino, vero? È piccola. Sarà 3 metri per 4. Ci sono 2 letti a castello e uno singolo, un tavolo, degli armadietti per i vestiti e nell'angolo vicino al cancello c'è il bagno, senza doccia, quella è in un'altra stanza. Nella mia suite ci abitiamo in 5 quando c'è il pienone. Abbiamo di tutto in cella, dal fornellino per il caffè allo spazzolino da denti. Ah, dimenticavo, abbiamo anche un terrazzino con le sbarre di cemento, è chiaro, dove stendiamo i panni e dove nelle notti di insonnia e di tristezza trascorriamo ore e ore a guardare il cielo o le macchine che sfrecciano nella Fipi lì, la superstrada che porta a Firenze, Pisa e Livorno, e la mente viaggia, viaggia, viaggia. Dimenticavo, la mia suite ha le pareti tappezzate di poster di Gianna Nannini, la mia preferita. Maria, carcere di Empoli. Gisella, carcere di Sollicciano. Durante il giorno abbiamo bisogno di luce e di sole, fa bene all'umore. E durante la notte abbiamo bisogno di buio per un sonno rigeneratore. Ma com'è qui? La luce artificiale durante il giorno fa sì che la sera ti ritrovi con gli occhi affaticati. E nella notte non c'è mai buio. Fuori ci sono i fari accesi. E nel corridoio splende davanti ad ogni cella una luce al neon, bianca, accecante. E dentro la cella c'è una luce blu, accesa tutta la notte. Chi pensa che la luce blu non sia dannosa, che non sia quasi niente, pensa male. Quando io mi sveglio durante la notte, mi sembra illuminato a giorno, anche se la maggior parte delle persone hanno avvolto la lampada con un panno per attenuare la luce. Sì, la luce mi procura dolore, mi fa male agli occhi e mi fa rabbia, perché non ci posso fare niente. E la mattina, quando la luce del giorno entra dentro la cella, ti svegli e quasi sempre hai la sensazione di non avere dormito. Non è soltanto la luce blu che disturba il sonno salutare, ma anche quando la gente fa il suo giro, apre la porta, guarda dentro la cella e ti raggiungono i raggi della luce chiara del neon davanti alla tua cella. Alcuni agenti illuminano le celle dal corridoio con una torcia elettrica e non so come ci riescono, ma colpiscono sempre gli occhi. Posso capirle loro quando dicono: non vi possiamo vedere, è troppo buio nelle vostre celle, non è permesso coprire la luce al soffitto. Ci credo, loro arrivano dal corridoio che è illuminato a festa, e quando guardano nelle nostre celle, per loro è buio. Per me invece è una luce abbagliante, perché quando mi sveglio vengo dall'oscurità del sonno. E questo non è salutare. È confermato anche da studi della ricerca medica. Quando si dorme con la luce, certi ormoni non vengono prodotti. E dormire sempre con la luce accesa fa ammalare. Al di là del muro vivono 100.000 persone, tra carcerieri e carcerati. Un mondo a sé, cancellato dalla vista e dalle buone coscienze collettive. Rimosso. La Corte Europea dei Diritti Umani dell'Uomo considera il sovraffollamento delle prigioni uno dei problemi più gravi dell'Europa dei diritti e l'Italia non è immune. Tutto ciò ha il prezzo di 3 milioni di euro l'anno. Educare, anzi rieducare, è lo scopo della pena, precisa la Costituzione. 1975, riforma dell'ordine penitenziario. 1986, legge Gozzini. 2000, regolamento penitenziario. 2006, Consiglio d'Europa. Carcere non più inteso come controllo dei corpi, ma come servizio a persone private della libertà e tuttavia integre nei diritti fondamentali: salute, affetti, lavoro, studio, religione, movimento, ancorché limitato, privacy, manifestazione del pensiero. Non un luogo dove si finisce, ma un luogo da dove si può ricominciare. Oggi, all'interno del muro di cinta, si consuma la contraddizione tra l'obiettivo dichiarato dalla legge e la gestione quotidiana della vita. La rieducazione resta sulla carta, il rispetto della dignità pure. Carcere fuori legge. Stenta a radicarsi l'idea che il carcere sia unicamente il muro di cinta, la privazione della libertà. e che per rendere più efficace la pena non sia necessario aggiungere altre afflittività a questa condizione umana. Quel sovrappiù costantemente somministrato attraverso il controllo totale non è contemplato da nessuna norma, anzi è contrario alla legge. Il carcere teoricamente è concepito come un luogo sensato, un luogo che produce libertà. Peraltro i dati parlano chiaro. La recidiva di chi ha scontato interamente la condanna dietro le sbarre, chiuso 20 ore al giorno a guardare il soffitto o la TV, è di gran lunga più alta di quella registrata tra i detenuti che hanno avuto la possibilità di lavorare o scontare parte della pena all'esterno. Nel primo caso arriva al 68,45%, nel secondo al 19%. La diminuzione di un solo punto percentuale della recidiva corrisponde a un risparmio per la collettività di circa 51 milioni di euro l'anno. Diceva Voltaire: «Non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione». A San Vittore i posti regolamentari sono 702. Ma nel 2009 ci dormivano 1517 persone. A Regina Coeli l'acqua calda, come in molte altre prigioni, è un optional e all'ultimo piano i rubinetti sono totalmente a secco. Il garante dei diritti dei detenuti del Lazio ha sollecitato la chiusura dell'antica prigione romana perché non è a misura d'uomo e ha proposto di farne un punto di riferimento artistico e culturale della capitale, come il Beaubourg di Parigi. Del resto, nel corso degli anni, Regina Coeli ha succhiato soldi a non finire. Ogni anno per la sua manutenzione si spendono più di 10 milioni di euro. Il valore stimato è di 180 milioni di euro, l'equivalente di 3 nuove carceri con centinaia di posti letto. Chiudere questi istituti come Regina Coeli, Luciardone, San Vittore sarebbe una scelta di buon senso. Eppure interessi clientelari ostacolano da sempre la razionalizzazione della geografia giudiziaria e penitenziaria. L'immutabilità genetica del carcere si percepisce fisicamente. La galera deve sembrare una galera. Dunque è disadorna, buia, noiosa, scomoda, punitiva. Se manca l'acqua, se le docce non funzionano, se i metri quadrati calpestabili dai detenuti dietro il blindato si riducono a un paio di passi a testa a causa del sovraffollamento, è normale, è galera. Se gli spazi destinati alla socialità o ai pranzi e le cene sono stanze vuote senza tavole né sedie, è normale, è galera. Se la cella resta chiusa 20 ore al giorno e neanche si può aprire la finestra perché il letto a castello è stato sopraelevato, ma è normale. Questa è galera. Se i detenuti trascorrono la giornata in pigiama, pantofole, barba incolta o al massimo in tuta e si cambiano solo per il colloquio, ma è normale, sono galeotti. Anche l'aria è impregnata di galera. C'è odore di chiuso, di fumo, di cibo avanzato, di medicine. Il carcere è un luogo di punizione e grigio è diventato il suo colore. Detenuto, galeotto, prigioniero, infame, camoscio, ospite, utente, guardia, custode, agente, secondino, appuntato, sbirro, brigadiere, superiore, poliziotto. Io sono un poliziotto e mi offendo quando mi chiamano guardia o quando un collega dice di essere una guardia. Avevo 20 anni quando ho cominciato questo lavoro. Era il 1995, l'anno del primo concorso pubblico subito dopo la riforma della polizia penitenziaria. Al corso di formazione si parlava moltissimo di costituzione, osservazione, trattamento, diritti umani, i nuovi fondamentali del poliziotto penitenziario. Ma l'impatto con il carcere è stato duro. Ho dovuto imparare a sopravvivere con i poliziotti più che con i detenuti. La cultura degli anziani ancora dilagava. Siccome io parlavo con i detenuti, alcuni colleghi mi davano dell'accamosciato. All'inizio non capivo, poi iniziarono a emarginarmi un po'. Con gli accamosciati si fa così perché li si considera troppo deboli. In carcere non puoi essere buono, devi essere un duro. Sì, da allora è stata fatta molta strada, ma il cammino è ancora lungo. Il nostro disagio della polizia penitenziaria, sì, nasce anche dalla sua scarsa visibilità. Nel senso che il nostro lavoro non viene immediatamente percepito all'esterno. Non è mediatico, non raccoglie consenso sociale. Il poliziotto di quartiere è visibile, riscuote riconoscenza per il suo lavoro sul campo e questa riconoscenza è una spinta motivazionale molto forte che noi non abbiamo. Fuori, carabinieri, polizia di Stato combattono i criminali, li affrontano corpo a corpo e quando li arrestano la gente percepisce che li hanno sconfitti. Ma quando questi stessi criminali arrivano da noi, cade la maschera della criminalità e resta l'uomo. E gestire l'uomo è ben più difficile che gestire il criminale. Il nostro è un lavoro silenzioso, però può dare risultati che durano negli anni, di cui tutta la collettività beneficia. Per questo io ci tengo che il mio lavoro sia riconosciuto e rispettato. E mi sento ferita quando mi chiamano guardia. Io sono un poliziotto. Alessandra, poliziotto penitenziario, carcere sperimentale di Bollate. Giuliana, madre in carcere, e Emiliana, detenuta di 3 anni. Sono rientrata in carcere da definitiva l'anno scorso, a gennaio, lasciando fuori 4 figli de 10, 9, 2 e un anno. Ero molto combattuta sulla scelta se portarmi appresso i 2 più piccoli. Mi dicevo, li tengo vicino, li proteggo. L'ultimo l'allatta ancora. Come faccio a separarmi da loro? Mia madre me l'ha proibito, per fortuna. Ma credo anche che se li avessi portati con me, li avrei fatti uscire subito. I bambini nel carcere sono sottoposti allo stesso regolamento delle madri. Il nido è strutturato anche bene. C'è una grande sala dove i bambini potrebbero giocare. E la cucina dove le mamme preparano i pasti caldi per loro. I bambini possono stare all'aria come le madri, cioè 4 ore al giorno. L'aria è anche grande. Ci sono le aiuole, i fiori. Ma che vedono sti bambini? Che stimoli c'hanno? Sempre gli stessi muri. La sera poi, quando tornano nelle celle con le madri e il blindato viene chiuso, allora si inizia a sentire le urla e li pianti, perché sti bambini rinchiusi e mica ci vogliono sta. Sono bambini belli, intelligentissimi e sani. Tra di loro c'è sta una detenuta che si chiama Emiliana e che oggi ha compiuto 3 anni. È un gran brutto giorno. È il giorno in cui dal carcere gli hanno comunicato che deve uscire. Ebbene sì, ci può stare qualcuno che non vuole uscire dal carcere eppure è costretto a farlo. Una detenuta di 3 anni. Perché per lei sta in carcere vuol dire sta con Maria, sua madre, mentre invece uscire vuol dire essere separata da lei inesorabilmente. Quando mi portano via mia figlia, io divento matta, dice Maria. Questo vuol dire l'affidamento e poi, soprattutto per quanto riguarda le detenute straniere, molto probabilmente la futura adozione. Sì, certo, ci potevamo pensare prima. E detenute straniere aspettano l'arrivo del compimento del 3° anno d'età del proprio figlio come il peggiore degli incubi. Il rapporto col bambino nell'ultimo periodo diventa morboso. E come non capirlo con questa separazione incombente, inevitabile, che si consuma giorno dopo giorno. 12 il numero delle carceri che ospitano bambini, 70 il numero dei bambini detenuti, da 0 a 3 anni. I bambini accusano disturbi dell'umore e ritardo dell'apprendimento del linguaggio. 30 il numero delle detenute in stato di gravidanza. Parliamo un po' di numeri. 205 il numero delle carceri italiane, 43.213 i posti regolamentari, numero dei detenuti presenti circa 70.000, di cui il 50% in attesa di giudizio e l'altro 50% con condanna definitiva. 2.286 numero delle donne detenute, 19.900 numero dei detenuti stranieri, 11.000 tossicodipendenti, 4.000 sieropositivi, 1.700 numero degli alcolisti, 170 morti l'anno, di cui 65 per suicidio. Chi di voi è mai stato in Canada? La migrazione delle oche bianche dal Quebec è uno dei fenomeni più affascinanti e spettacolari del mondo. Fanno scalo sull'estuario di un fiume, 20 chilometri di riserva pronti ad accogliere le oche delle nevi. 20 chilometri, ma ci pensate, che numero importante. I detenuti sono uomini, non numeri. Forse questo è un pensiero poco originale, ma quando sfogli una rassegna stampa sul carcere trovi molti articoli che sembrano proprio delle note contabili, numeri. 8.000 i chilometri percorsi dalle oche bianche, 15.500 gli esemplari, 60 centimetri la taglia minima, 110 la massima, 9 il numero delle uova deposte. Nidificano sempre tra il 50° e il 60° parallelo. Che noia, che barba. Cambiamo notizia. Cerchiamone una più interessante. Voltiamo pagina, voltiamoci dall'altra parte. Ci credereste che dietro un'informazione ci possono essere una serie di regole precise in grado di manipolarla, di renderla meno attraente? Spersonalizzazione, numeri al posto di umanità, sintesi di giudizio critico di parte, propaganda, distinzione, spostamento del punto di vista, quindi del ruolo del protagonista in una notizia, per esempio. E se noi prendiamo una qualsiasi notizia sul carcere, per esempio l'emergenza suicidi, ecco, di solito viene trasmesso uno scarno comunicato nel quale ci si preoccupa di mettere in evidenza il lavoro svolto dagli agenti, prontamente accorsi per soccorrere il detenuto, dei medici chiamati d'urgenza che si sono prodigati a salvargli la vita, degli altri operatori che lo seguivano costantemente. Cioè, loro diventano i protagonisti dell'articolo. Del detenuto neanche il nome. Se poi è straniero si dice era marocchino, forse tunisino. Altre regole. Diversificazione tra chi ha un'identità e chi no, chi ha un nome e chi no, reiterazione di un dato, anche se spropositato e impressionante, fino a renderlo innocuo, emozione, abitudine, indifferenza. Questi sono i tre gradini che un'informazione sul carcere percorre. Tanta scientificità dietro un'informazione. C'è qualcosa che non quadra. Voglio dire, se tu non sei un detenuto, un parente di un detenuto, un volontario, un operatore penitenziario, leggi del sovraffollamento delle carceri come potresti leggere della migrazione delle oche bianche del Quebec. Cioè, non te ne frega niente. Se però noi volassimo in Canada e ci appostassimo nell'osservatorio per una settimana a guardare le oche che giocano con le onde dell'estuario del fiume, probabilmente dopo un po' inizieremo a dare un nome ad ogni oca e a immaginarci una storia per ognuna di esse. E allora anche il detenuto non sarebbe solo un numero, una statistica, ma avrebbe un nome, un'età, una famiglia, una storia precisa. Mi chiamo Maria Laura. E la mia storia comincia qui, dalla felicità che provo a sentirmi di nuovo una persona libera, dopo 6 anni e mezzo di galera. Libera di farmi un documento d'identità, di avere un'identità, di portarmi a casa da mangiare quello che voglio e non solo le cose della lista. Libera dalle perquisizioni delle celle, dal vedersi le proprie cose, dagli abiti alle mutande, alle macchine fotografiche toccate e spostate. Libera dalle perquisizioni degli astucci e degli occhiali da vista ogni sera. Libera dal dover fare la domandina anche per respirare. Libera dal dover dar ragione a persone che magari ragione non ce l'hanno. Ma felice. Felice perché tutto il lavoro e tutta la fatica di questi 6 anni e mezzo sono stati riconosciuti con l'accoglimento della mia richiesta di affidamento ai servizi sociali. Il carcere è faticoso, anche se non si fa nulla. Figuriamoci poi se si tenta di fare un lavoro su se stessi. Un lavoro che, per come sono strutturate le carceri, sembra titanico. Ci si sente spesso circondati dalla volontà che tutto rimanga come è, che il detenuto non scocci più di tanto, che non pretenda di studiare, di pensare, di progredire, di diventare qualcosa di diverso da ciò che era. La fatica immane che io ho fatto, con l'aiuto di qualcuno, il boicottaggio da parte di molti, per affrontare gli studi universitari, ha dimostrato la mia ferrea volontà di cambiare vita. E questo credo che sia il fine ultimo di un percorso di recupero carcerario, che il detenuto, arrivato a fine pena, si reinserisca nella società come un cittadino onesto e non compia più reati. Maria Laura, carcere di Rebibbia. L'avrei incontrata 2 giorni prima della sua definitiva liberazione, a Rebibbia. Faccio il passo reale, mi tuffo doverosamente nella realtà. La mia immaginazione ha vissuto, proliferato, raccontato. La mia documentazione ha penetrato archivi, pagine di giornali, libri, siti internet. Ora il mio passo ulteriore diventa fisico. Entro dentro. Ho un appuntamento con la vice direttrice del carcere. Ci sono stata dietro per mesi. Finalmente attraverserò anch'io la porta Carraia. Non da detenuta però, non preoccupatevi. La notte prima dormo poco e sogno, sogno molto. Evento per me di estrema rarità. E sogno di volare, ma non sopra la città, sopra il mare o sopra i campi di girasole, no. Sogno di volare tra 4 mura. Vedo i particolari delle mie mani che toccano le pareti, dei piedi che toccano le sbarre. E improvvisamente mi vedo vorticosamente girare, come una stella danzante, come loro. Un senso di angoscia mi pervade. Poi ho un vuoto nel sogno e subito l'immagine successiva. Mi trovo in un teatro. Ci sono le detenute, sono tante. È il loro teatro, il teatro del carcere. Stanno aspettando che inizi lo spettacolo, sono febbricitanti, chiacchierano, sono emozionate, si divertono. Io riesco a scambiare con loro qualche parola, non mi sembra vero. Improvvisamente incontro uno sguardo nel quale mi ritrovo, mi riconosco. Ne sento tutto il calore, la normalità della vita. E il senso di angoscia che avevo prima si scioglie completamente. Sono felice di essere lì, con loro, insieme a loro. Mi sveglio dal sogno, tranquilla, entusiasta, e vado. Arrivo davanti alla porta del carcere, la vice direttrice mi aspetta e mi accoglie con un sorriso dolcissimo e inizia a chiacchierare ininterrottamente. Tra le tante cose mi dice: chi entra qui dentro ha l'opportunità di vivere un'esperienza umana incredibile, mi creda. Lentamente la porta a carraia si apre e la prima immagine, inaspettata, mi leva completamente il fiato. Nel cortile antistante l'ingresso, una distesa di arance rosse. Migliaia, sono tantissime. Guardo la direttrice che mi dice: sono le arance della Sicilia, ce le portano da giù. È novembre, periodo, sono tantissime, tutte per le detenute. In questo periodo, Re Bibbia, è uno spettacolo. Dovrebbero vederla tutte. Una distesa di arance colorate. Io sorrido. Anino! Te porto l'aranci due, Nino! Chille che te piacciono! Te amo, Nino! E lentamente attraverso la distesa di arance verso la porta d'ingresso.